Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Ma buongiorno, eccoci, benvenuti, sono le 11.09, abbiamo Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, andiamo a sentire i temi di cui ci occuperemo oggi. Raffreddore, perché arriva e perché non passa? Imbarazzante e fastidiosa, parliamo di forfora. Malattie neurodegenerative, servono i test genetici? Il raffreddore si è affezionato, non passa? E anzi, si porta dietro anche alcuni amici, i famosi sintomi correlati, senso di ovattamento, mal di testa, naso tappato o naso gocciolante. A volte le due situazioni, proprio per non farci mancare nulla, si alternano. Ma se volete possiamo anche aggiungere l'impressione che alcuni riferiscono di avere meno fiuto, proprio perché diventa più difficile con il raffreddore riconoscere gli odori, o ancora quella apparentemente contraria di sentire odori cattivi dentro il naso. Allora, siete dei nostri, se vi siete riconosciuti in questi sintomi, accomodatevi. Oggi parliamo di raffreddore cronico, o se volete affezionato, o ancora di quello che quando va, poi veloce veloce ritorna, quasi sentisse la nostra mancanza. 800 24 0024, numero verde per nasi in crisi, ma ci aiuterà a uscire dalla crisi il dottor Andrea Franzetti, primario di otorino laringoiatria all'ospedale Bassini di Cinisello Balsamo. Dottore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, buongiorno a tutti. Senta, il suo naso come se la sta cavando in questo periodo? Assolutamente benissimo. Ma no, dai, non le viene mai un raffreddorino? Cura solo quelle degli altri? Fortunatamente no, per ora no. Dottore, quanto dura in media un raffreddore? Ma allora, un raffreddore comune dura in media 4-5 giorni al massimo. Se iniziamo ad andare oltre 5 giorni di sintomi abbastanza importanti di raffreddore comune che si risolve spontaneamente, poi ci possono essere degli aiuti che diamo, però voglio dire il raffreddore comune si risolve spontaneamente con le forze che ha il nostro organismo. Se iniziamo ad andare oltre 5 giorni vuol dire che qualcosina inizia a non funzionare, quindi il fatto di avere dei tempi molto più lunghi, a volte anche 15-20 giorni di raffreddore che non va via, dei sintomi o comunque delle situazioni che non sono proprio il raffreddore, ma che fanno parte di un contorno che è indice del fatto che il nostro raffreddore si sta un po' allargando verso spazi intorno al naso o in posti vicini, ecco, bisognerebbe iniziare a ragionarci su un pochettino. Tra l'altro, il raffreddore è bizzarro, un po' lunatico, verrebbe da dire se fosse una persona. C'è quello che arriva dopo la classica infreddatura e quello ha una spiegazione: ho preso freddo e mi viene il raffreddore. Almeno noi diciamo così, è giusto, è corretto? Certo. Ma ci sono anche raffreddori che si presentano in momenti particolari della giornata, al mattino ad esempio, o la sera, starnuti a raffica, oppure in alcuni ambienti c'è chi entra, quella sono io, in ufficio, in redazione e almeno si fa una ventina di starnuti. E poi ci sono quelli stagionali, quelli che arrivano con la primavera o il classico raffreddore da fieno. Tanti tipi di raffreddore e c'è chi li prova tutti. Certo, bisogna però non confondere il sintomo, cioè lo starnuto che viene in alcuni momenti, piuttosto che il naso chiuso che poi si riapre, che è un sintomo, non è il raffreddore questo, con quello che invece è il raffreddore, che invece si chiama tecnicamente rinite o rinopatia. Cioè rinite se è un fatto acuto, rinopatia se è un fatto che tende a cronicizzare. Perché la rinite e la rinopatia sono un insieme di sintomi che stanno insieme e durano e si ripetono. Il sintomo invece potrebbe non essere un raffreddore, potrebbe essere indice di un'altra cosa dell'organismo, lo starnuto piuttosto che il naso che si gonfia, piuttosto che gli odori che si sentono o non si sentono. Ecco, gli odori che si sentono o non si sentono, questo è un problema serio che molte persone riferiscono al proprio medico. Anche perché non sentendo gli odori si fa fatica a sentire il gusto. Eh sì, e lì è brutto. E quindi è brutto. Mangiamo e non abbiamo la percezione di quello che mangiamo. Il naso, lei ha accennato al naso tappato, a volte tapparsi è solo una narice. Perché questo potrebbe essere un indice di una forma che noi chiamiamo vasomotoria, cioè di mucose che all'interno del naso, a livello dei turbinati, si gonfiano o si sgonfiano, che sono dei fenomeni fisiologici che però in determinati momenti non funzionano come dovrebbero. e quindi bisogna e non c'entra niente con un fatto infettivo, infiammatorio, col freddo o altre cose. Arrivano già i messaggi al 349-238-6666. Dottor Franzetti, ho sempre il raffreddore, ma ultimamente mi sento anche un peso intorno agli occhi, e quando non metto il cappello con questo freddo peggiora. Certo, perché il naso è un po' l'anticamera di quello che noi chiamiamo i seni paranasali. E quindi quando l'anticamera è piena, tutto ciò che è dentro i locali intorno non può uscire. Quindi se il naso non funziona, si ha sempre un condizionamento di questi seni paranasali. Sotto agli occhi ci sono i seni mascellari, medialmente ci sono gli etmoidi, e queste zone possono essere bloccate da un naso che non funziona. Cosa succede? Succede che si accumula del muco, del catarro, aumenta la pressione, quindi esternamente tendono a gonfiarsi, a accumularsi un pochettino più di liquido sottocutaneo, perché uno dice sono un po' più gonfio in quella zona lì. Oppure inizia a premere contro delle pareti che sono pareti ossee, dove ci sono terminazioni nervose, avere prima una sensazione di pesantezza fino ad avere delle proprie algie, dei dolori in queste zone. Augusto ci scrive: tutti mi chiedono se ho il raffreddore. Io sternutisco poco. Come mai ho la voce nasale? Magari tirerà anche su col naso, come si dice qualche volta. Ha la voce nasale perché probabilmente il naso e i seni paranasali, che fanno da cassa di risonanza per la nostra voce e danno delle caratteristiche alla nostra voce, se sono in qualche modo occupate da muco, catarro, oppure se non sono ben ventilate senza avere muco o catarro, possono alterare la nostra voce, dare dei sistemi di risonanza diversi che noi chiamiamo rinolalia chiusa, per quelli che parlano col naso chiuso, o rinolalia aperta per quelli che parlano con Paperino così. C'è un altro SMS: di giorno tutto bene, di notte mi si chiude il naso tutto l'anno. Certo. Come mai, dottor Franzetti? C'è qualcosa nell'ambiente, in questa camera da letto, che non funziona? Allora, intanto qualcosa non funziona a livello di turbinati in questo caso, perché quando uno si sdraia, soprattutto se ha decubito supino, aumenta il ritorno venoso verso il naso. I turbinati, e che sono formazioni nasali, che sono dei corpi cavernosi come delle spugne, che si gonfiano di sangue, si hanno aumento. Che impressione, vero? E certo, ma hanno una funzione, servono proprio per umidificare, riscaldare, depurare l'aria quando passa nel naso. Questo aumento, quest'onda di sangue che, siccome ci sdraiamo, aumenta verso la testa quando noi dormiamo, gonfia in maniera anomala questi turbinati, come se si formassero dei palloncini più gonfi nel naso. Questo meccanismo, che è un meccanismo fisiologico fin quando ci permette di respirare normalmente, può, o per problemi allergici o per intolleranze o per problemi anche generali, metabolici dell'organismo, andare incontro, stararsi, diciamo così, e quindi dare questi fenomeni di maggior gonfiore. Per esempio, se uno la sera, uno che normalmente ha poco di questi fastidi o ha un accenno a questi fastidi, mangia molto e beve molto, aumenta questo fenomeno. E poi si russa. E dopo russa. Quindi di male in peggio. 800 24 0024 se il vostro naso va in crisi. 349 238 6666 se invece preferite mandarci un messaggio. Una mela al giorno. E adesso effetto neve. Parliamo di un disturbo imbarazzante che si fa vedere, quindi ci crea abbastanza imbarazzo. Si fa vedere soprattutto sulle giacche blu degli uomini. E parliamo di forfora. Ne parliamo oggi con il dottor Rinaldi, dermatologo a Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno a voi. Ci sono uomini che non possono portare il blazer blu proprio per evitare, no, di avere questa spolverata di neve. Sì, sì, sì, è una cosa molto frequente, tra l'altro si sta un po' impasticciando con gli anni, c'è questa situazione di spolverata di microparticelle di pelle, quindi la neve sono piccole scagliettine molto piccole di pelle che crescono troppo velocemente e che quindi si staccano troppo velocemente dalla pelle e si vedono e danno anche magari un po' di fastidio, oltre all'estetica magari danno un po' di prurito. Tra l'altro ultimamente le condizioni inquinanti dell'ambiente creano un po' di infiammazione proprio già di per sé della pelle, il cuoio capelluto è così esposto perché lo è sempre, che sono ancora più aumentati i casi di desquamazione, di forfora, quindi è sempre più numerosa le persone persone che hanno questo. Dottor Rinaldi, noi di solito ci facciamo l'autodiagnosi. È facile pensare che quelle scagliette oppure il prurito in testa sia un problema di forfora. È sempre così? No. O lei può imprestarci il suo occhio clinico per capirne di più? Sì. Spesso non è forfora, ma è una cosa che si chiama dermatite seborroica, è quello sì. che viene chiamata forfora grassa. Diciamo che l'autodiagnosi può essere facile, e anche per capire se serve andare dal dermatologo o no, perché la forfora ha delle squamettine molto molto piccole, sì. veramente quasi poco visibili, come fossero granellini di zucchero, molto piccole. La dermatite seborroica ha delle squamettine un po' più grosse, quindi un po' più visibili, come delle briciole, un po' più grosse. E poi normalmente con la forfora la pelle è bella bianca, non ci sono segni di irritazione. Con la dermatite seborroica si vede magari un po' di rossore e il prurito un po' più forte. In questo caso è più utile andare a farsi vedere dal dermatologo, perché serve fare una terapia un po' più impostata. Prima sentivo parlare con grande interesse, anche perché a me si tappa il naso anche a me, quindi. Ah, vede, è dei nostri. Esatto. Il dottor Franzetti invece ha sempre un naso perfetto. Si vede che ha dei segreti turbinati che non ecco, che non ci vuole raccontare. Esatto. Allora anche qui ci sono condizioni di irritazione, di sensibilizzazione che possono peggiorare le condizioni della pelle. Allora magari va impostata una terapia un po' più completa. E per la forfora, quindi, se sono solo squamettine molto molto piccole, un po' cicliche, invece basta prendere questi shampoo antiforfora, ce ne sono magnifici in farmacia, e fare dei cicli tipo un mese e mezzo, e può passare. Ecco, però, quindi il consiglio che diamo oggi è: guardate le dimensioni di queste scagliette. Sì. Se sono molto piccole potete arrangiarvi da soli utilizzando questi shampoo, che però hanno un po' di effetti collaterali. Mi lasci dire così, tra virgolette, nel senso che molti li usano e dicono: però il capello mi si ingrassa di più, oppure lo trovo spento, è un po' più appiccicato. Come sì. mai? Perché contengono delle sostanze che hanno questa azione terapeutica, normalmente si chiama ciclopiroxolamina o solfuro di selenio, zinco piritione, sono le più comuni, che appesantiscono un po', per la maggior parte degli shampoo, proprio il tipo di shampoo, e allora chiaramente il capello risponde meno, oppure addirittura tende a diventare più secco il capello e un po' più brutto. Tant'è vero che vanno usati non oltre un paio di volte alla settimana, alternando, e qui il messaggio che abbiamo già dato anche mille volte a Radio 24, il messaggio è: più si tiene pulito il cuoio capelluto, i lavaggi sono più frequenti, meno la pelle si irrita e meno desquamazione c'è, quindi alternando questi shampoo con shampoo molto delicati o addirittura idratanti. Quindi proprio solo da utilizzare nei momenti utili, quando serve per curare quel problema, e poi passare a shampoo solo delicati. Dottor Rinaldi, due parole sulle lozioni. Sì. Servono? Ma le lozioni antiforfora sì, servono, devono essere molto specifiche in realtà, perché sennò non servono a niente, servono solo a pulire un po'. Allora qui però se serve la lozione, allora è meglio andare dal medico, perché bisogna indicare quelle giuste, non prenderne una qualsiasi, perché si rischia di mettere solo un po' di alcol che fa poco o niente, insomma. Quindi direi che se lo shampoo serve già da solo a tamponare il problema, va bene. Se lo shampoo non basta, quindi ci si accorge che persiste la situazione, allora conviene andare a sentire uno specialista. Dottor Rinaldi, alcuni sms, ben 4, e sono tutti firmati da uomini, mi chiedono se la forfora può far cadere i capelli. La forfora no, sicuramente no. La dermatite seborroica sì, può contribuire a peggiorare, a far cadere i capelli. Anche qui è importante differenziarle. Quindi occhio alla scaglietta. Trattamenti come ad esempio le tinture possono peggiorare o migliorare la situazione? Migliorarla no, peggiorarla neanche, salvo che ci siano delle situazioni di irritazione o di allergie, allora chiaramente aumentano il problema, se no sono indifferenti e quindi si possono fare senza problemi. Augusto ci scrive: cappello e forfora. Cappello? Sì. Indifferente. Dottor Rinaldi, io la ringrazio per essere stato con noi, quindi abbiamo dato ai nostri ascoltatori poche chiare indicazioni per capire quando possono trattare la forfora utilizzando degli shampoo mirati, alternandoli naturalmente a degli shampoo più delicati, o quando invece la dimensione delle scagliette deve invitarli a fare un saltino dal dermatologo. Dottore, grazie, buona grazie giornata. Arrivederci, grazie. Pronto soccorso. Datemi il vostro naso, 800 24 0024, anche se gocciola, vero? Anche se tappato, anche se soprattutto vi dà problemi, magari come quelli che ci vuole raccontare Franco, che ci chiama dalla provincia di Milano, 800 24 0024. Franco, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, complimenti. Sarò velocissimo. Sì. Il mio problema è che 24 ore al giorno ho sempre un naso tappato, una narice tappata. Si alterna una volta la destra, una volta la sinistra, ma comunque... Vede, si mette... Franco, si mettono Franco, d'accordo. Buongiorno Franco. Buongiorno. Ma quando una si apre l'altra si chiude e poi si riapre, una è sempre aperta delle due? Una è sempre aperta, ecco, allora, però l'altra faccio fatica a respirare. E poi dopo si inverte la cosa. Poi si invertono, esatto. Però quindi, mai tutte e due insieme. Questo è un fenomeno tipico vasomotorio che troverebbe la sua soluzione con un trattamento con il laser sulle mucose dei turbinati, che è una cosa che si fa in day hospital senza sangue, senza tamponamenti nasali, e si risolve facilmente. Una passatina di laser, Franco, devo venire anch'io con lei, andiamo insieme allora. Infatti, la ringrazio perché è anche un problema questo qui. No, a chi lo dice? Quando mi si tappa il naso che sono in diretta, sembro altro che Paperino. Grazie, grazie Franco. Andiamo nella provincia di Ferrara, ci aspetta Sandro. Sandro. Buongiorno. Buongiorno, vediamo se accompagno anche lei per questo disturbo, perché io devo dire al naso ce li ho tutte. Sandro, a lei che cosa capita? Allora, a me sembrava di essere tornato ragazzino a sentir dire le cose che stanno dicendo sia gli ascoltatori che voi, perché era un po' come con le figurine, ce l'ho, manca, ce l'ho. E praticamente il mio è un percorso che nasce come allergia, perché sono anche allergico agli acari. Sì. Ma me ne sono accorto anche tardi, verso i 22-23 anni, tornato da militare. E dopodiché è un calvario, perché ogni minima cosa mi picchia nel naso, cioè... ho una narice che non funziona granché bene, mi sono visto in un filmato addirittura di gioventù in mezzo ad altri amici che, se posso dirlo, sembravo quasi un tossico, perché non continuo a toccare il naso, come a liberarmi. Adesso è un vizio che non so neanche, però ci sono rimasto male io per primo. Certo. Il mio discorso è tutta una cosa di sinusiti. Di raffreddori che partono come allergie, diventano raffreddori, tornano allergie. Io ci tiro avanti con delle gran pastiglie di antalgici. Sì. E ho notato anche che ho dei cambi di umore esagerati quando le prendo, divento proprio nervoso, intrattabile, insofferente verso tutti. Allora Sandro, qua è meglio sì, ci sono due, dare qualche indicazione, sì, a Sandro. Direi che Sandro è in una delle situazioni più complesse in cui si possa trovare, nel senso che ha sicuramente un problema di tipo allergico già noto che gli condiziona tutta la funzionalità nasale legato a questi edemi, le mucose, quindi tutta la sintomatologia di un'allergia agli acari, tra l'altro che è un'allergia perenne, quindi sempre. E per questo, per forza di cose, deve trattarla in maniera ciclica, sia localmente utilizzando spray o utilizzando anche dei lavaggi piuttosto che delle cure di tipo termale o anche di medicine alternative, associate nei momenti peggiori con degli antistaminici o comunque dei farmaci per via sistemica. Ma lui ha anche un secondo problema, il fatto che da questa situazione si sviluppano delle sinusiti, cioè si sviluppano delle patologie a carico dei seni paranasali che gli complicano ulteriormente la vita e innescano un circolo vizioso per cui peggiora in continuazione il quadro allergico. Il quadro sinusitico invece non è un quadro, diciamo così, legato alla reattività allergica, ma è legato a una conformazione anatomica che il suo naso ha. Una volta si stentava molto ad affrontare chirurgicamente questo problema perché l'intervento chirurgico sui seni paranasali era un intervento estremamente invasivo. Si faceva anche per via combinata, anche passando dall'esterno, dalla bocca o da altre parti. Non mi dica queste cose. Ma adesso non si fa più. Non adesso, già più di 10 anni che non si fa più. Ma addirittura negli ultimi anni abbiamo dei tipi di interventi che si mutano, per esempio la cardiochirurgia, in cui entriamo attraverso solo le narici con delle fibre ottiche e dei palloncini e andiamo a dilatare, così come si dilata un'arteria coronarica, gli osti di drenaggio dei seni paranasali. Questa è una cosa che è estremamente incruenta dal punto di vista dei postumi dell'intervento, che a volte non comporta neanche il tamponamento nasale. Sì, che è quello più fastidioso. Che è quello più fastidioso che deve sopportare la persona. Per cui se non c'è da toccare il setto nasale, ormai abbiamo abbattuto oltre il 50% le indicazioni della settoplastica. Questi tipi di interventi permettono di risolvere i quadri di sinusite in maniera definitiva con un unico intervento di questo tipo. È chiaro che il quadro allergico andrà curato per tutta la vita, in maniera preventiva o no. Quindi adesso siamo arrivati alla sinusite, se ne soffrite, certo. E quindi il dottor Franzetti ci farà una sorta di visita tra poco dopo i mercati e il meteo, ci insegnerà a toccare quei punti nella nostra faccia, soprattutto intorno agli occhi, che ci possono aiutare a fare una sorta di autodiagnosi. Restate con noi perché lei parlava di sinusiti al plurale e noi scopriremo perché. E se fosse sinusite, 800-24-0024, dottor Franzetti. Allora, quando parliamo di sinusite vuol dire che qualche dolorino ce l'abbiamo, o pesantezza, fastidio, dolorino, che però non bisogna confondere con le migliaia di cefalee che ci sono. Ci sono dei punti che però ci fanno pensare in modo particolare che può derivare da questo problema di sinusite. I punti più classici sono le regioni sotto gli occhi. Sì, dove abbiamo le occhiaie. Sì, anche un pochettino più sotto, anche un po' più in basso. C'è una specie di piccolo avvallamento, se noi schiacciamo col dito, sì, che si chiama fossa canina, dove esce un nervetto. Fossa canina, sì. Che nomi! Dove esce un nervetto, che è un ramo del trigemino, che se noi lo schiacciamo molto leggermente normalmente non ci fa male, no. Però se noi schiacciamo quando abbiamo un fatto acuto a livello sinusitico ci fa molto male. Quindi oltre al gonfiore sotto gli occhi, il dolore in questa zona. Poi c'è il dolore invece sopra gli occhi, a livello del sopracciglio, che però è sempre un dolore mediale, cioè verso la radice nel naso, quello sinusitico, mentre invece quelli che dicono che hanno dolore sopra gli occhi ma a livello delle tempie non è un dolore sinusitico. Non ce la date a bere, insomma. E poi c'è un dolore molto subdolo, che è un dolore che invece è proprio in centro, nel mezzo della testa, che lì è un dolore di una sinusite sfenoidale, cioè di un seno paranasale che è molto posteriore, che è meno frequente, però che essendo più subdolo può dare anche molti più problemi. Andiamo a Palermo, che bellezza. Jonathan, buongiorno. Sì, buongiorno. Buongiorno, grazie per avermi dato questa opportunità. Senta, intanto avete il sole caldo? No, purtroppo no. Perché il sole ve l'abbiamo rubato qua a Milano, oggi finalmente c'è il sole, magnifico. Allora, un minuto ogni tanto va bene. Dai, un po' per ce uno. Lo concediamo. Bene, Jonathan, lei ha provato a fare questa sorta di autodiagnosi guidato? Sì. Da... Però non riesco a capire, nel senso che alcune volte mi ritrovo ad avere dei fortissimi dolori all'altezza delle sopracciglia. Sì. E al centro, proprio nella parte superiore del naso, al centro della parte frontale. Sì, dottor Franzetti. Quanto tempo le durano questi dolori? Qualche minuto o vanno avanti anche per qualche ora? No, vanno avanti anche per qualche ora. Anche magari qualche giorno, ecco, un giorno intero. Ecco, l'esame più indicato per capire se c'è una componente sinusitica in questo dolore è fare un TAC del massiccio facciale, dei seni paranasali, senza il mezzo di contrasto, quindi senza iniettare nulla. Questo ci permette di vedere se c'è una componente di ostruzione o ossea o infiammatoria a livello dei seni frontali. Altrimenti bisogna orientarsi o verso un problema oculistico o verso una cefalea. Ah, ho capito. Perché spesso mi fanno anche male le tempie e tiro spesso col perché naso. Potrebbe essere invece un dolore di tipo cefalalgico e quindi va indagato da un neurologo, da un centro della cefalea. Perfetto. Va bene. Grazie. La facciamo andare bene lo stesso, Jonathan. Perché sì, sì. Grazie a Jonathan, 800-24-0024, se volete intervenire. E noi andiamo insieme al dottor Fausto Bonsignore, medico della Scuola di Specializzazione di Idrologia Medica e Clinica Termale dell'Università degli Studi di Pisa, alle Terme. Dottore, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie a voi, buongiorno. Dottore, noi portiamo la nostra sinusite alle Terme, facciamo bene? Sì, fate benissimo, perché è una delle principali indicazioni della terapia termale, dell'idrologia medica. La sinusite cronica si cura alle terme e si cura con grande efficacia, con grandi risposte. Il dottor Franzetti ha usato il plurale, ha parlato di sinusiti, il che vuol dire che ce ne sono più di una. Ad esempio, io ho sentito parlare di sinusite secca e di sinusite umida. Facciamoci dare una definizione dal dottor Franzetti e poi mettiamo al lavoro il dottor Bonsignori. Dottore. Ma è proprio legata, questi sono due tipi, ce ne sono altri tipi di tipo infettivo di altro tipo, è proprio legata alla caratteristica di formare grossi accumuli di muco dentro il naso, di difficoltà a drenarli, muco denso eccetera, piuttosto che delle sinusiti che danno delle sintomatologie diverse senza queste produzioni importanti di muco, anzi formando una secchezza nasale, delle crostosità o cose di questo tipo. E sempre questo senso un po' di ovattamento, dolore alla pressione. Sempre esattamente tutto l'insieme dei sintomi. Dottor Bonsignori, abbiamo fatto questa macro distinzione. Quali sono? Molto giusta. Ecco, ma le acque termali, ci sono tanti tipi di sinusite, ci sono tanti tipi di acque, per cui non abbiamo che l'imbarazzo della scelta, ma bisogna scegliere quella giusta. Cioè, noi abbiamo in Italia una straordinaria qualità e quantità di acque termali. Per quanto riguarda le sinusiti, ovviamente le due acque principali, quelle che vengono usate proprio in queste due tipologie di sinusiti che diceva il dottor Franzetti, sono le acque sulfuree, che sono molto usate, e le acque salzobromoioliche. Sono due tipologie di acque diverse che si trovano ovviamente in stazioni termali diverse, differenti. Quindi abbiamo un'azione sia terapeutica e abbiamo anche un'azione cosiddetta preventiva secondaria, perché una buona azione con le terme riduce sicuramente sia in quantità sia in qualità le ricadute, le riacutizzazioni. Le acque sulfuree sono indicate soprattutto per un'azione mucolitica, no? C'è l'idrogeno solforato che quindi ha un'azione specifica proprio su quelle sinusiti che sono forme produttive, forme catarrali, sì. Catarrali mucose e mucopurulente. Quindi lo zolfo in questo caso agisce in questo senso, ma anche un'azione detergente, anche un'azione oltre che antinfettiva e anche di stimolo della produzione di immunoglobuline locali, quindi di anticorpi locali. Se vuole sapere quali sono all'incirca le stazioni. Mi piacerebbe italiane. Molto, infatti, grazie. Ora ce ne sono molte, ora io così facciamo un viaggetto lungo lo stivale. Facciamo un viaggetto un po' che va dal sud al nord della penisola, ci possiamo fermare in questo caso a Saturnia, per esempio, a Taviano, oppure a Porretta Terme, quindi interessiamo un pochino tutta la penisola per queste acque sulfuree molto benefiche. Mentre le acque salzobromoiodiche, sì, che sono acque ricche, acque ipertoniche, hanno un'azione soprattutto antinfiammatoria, molto spiccata, anche antibatterica, sedativa e anche stimolante la movimentazione delle ciglia, vivatili e così via. Queste sono utilizzate però soprattutto in quelle che diceva appunto il dottor Franzetti, nelle forme cosiddette secche. Quando insomma non dobbiamo soffiarci il naso, ecco, per farla più semplice. Di muco e che in taluni casi, quelli più gravi, ovviamente evolvono quasi a un'atrofia della mucosa. E qui sempre nel nostro immaginario viaggio per l'Italia ci possiamo fermare al Salso Maggiore, ad Abano, ad Ischia, a Sirmione, dove qui si aggiunge alla qualità salzobromoiodica anche una certa quantità di acqua sulfurea, sono miste. E poi di straordinaria importanza, sempre più emergente in questi casi, è la talassoterapia, cioè l'utilizzo di acqua di mare. L'acqua di mare che è un'acqua simile alla salzobromoiodica e che è veramente molto, molto utile e molto apprezzata in queste terapie per le sinusiti cosiddette secche. Sempre croniche, perché alle terme ci si va solo per curare le forme croniche e mai per curare le forme acute. Questo è molto importante come distinzione. E poi si può fare anche prevenzione alle terme, quindi mi sembra un concetto molto importante. Dottor Franzetti, lei li manda alle terme i suoi pazienti? Tra l'altro li passa il Servizio Sanitario Nazionale queste cure? Allora, esattamente. Li mando assolutamente sì. E poi viene per determinate patologie, tra cui anche le rinosinusite croniche, è passato dal Servizio Sanitario. Dottor Bonsignori, grazie per questo viaggio tra le acque termali per curare la nostra sinusite cronica e soprattutto per prevenire nuovi attacchi, perché la sinusite si fa sentire, è molto dolorosa in alcuni casi. Dottore, grazie, buona grazie giornata. Grazie a voi, buona giornata, arrivederci. E noi andiamo a Roma, ci aspetta Maurizio. Buongiorno Maurizio. Buongiorno. La mia domanda è questa: io normalmente ho un naso abbastanza accettabile, ho 60 anni, di notte da un po' di tempo mi si secca in una maniera talmente forte che praticamente mi sveglio e addirittura questa secchezza arriva addirittura a dar fastidio al velo pendulo e mi sveglio, devo per forza bere, certo. E ho scoperto che per riuscire a risolvere un po' il problema per un'ora o al massimo posso usare un vasocostrittore nasale, però più di un'ora non dura e quindi mi risveglio un'altra volta. Maurizio, quando mi alzo immediatamente la cosa scompare. Maurizio, senta, ma non è che per caso lei non respira dal naso e respira con la bocca, quindi le si secca tutto? Quando usa il vasocostrittore respira dal naso e quindi non secca la bocca. Quando si alza, e guardi che secondo me dovrebbe essere così il meccanismo, perché il velo pendulo è in bocca, non è nel naso. Se si secca l'ugola o il velo pendulo o il palato molle è perché sicuramente c'è un problema di cattiva respirazione nasale che lei corregge col vasocostrittore, e quindi col vasocostrittore va bene. Quindi ma io ho avuto l'impressione, io parte il fatto che non russo, so di non russare. No, ma non c'entra. Senta, Maurizio, sa che tutti noi, nessuno ammette di russare, abbiamo fatto delle puntate, nessuno russa, russa sempre la moglie o il marito vicino, ma noi non russiamo mai, per cui bisognerebbe magari farci mettere un registratorino di fianco e così. Ma potrebbe non esserci la concopatia, il problema è proprio che questa dinamica della secchezza del cavo orale, del faringe, dell'ugola, del velo palatino e quindi anche del naso, riflesso a questo, è legato al fatto che l'aria, noi durante la notte, quando col decubito supino appunto si gonfiano quelle spugnone. Esatto, noi respiriamo con la bocca senza accorgersi, anche tenendo la bocca socchiusa, l'aria non viene umidificata, non viene riscaldata perché non passa dal naso e quindi secca tutto. Noi ci svegliamo di soprassalto perché è tutto secco, quindi certo, lo percepiamo anche come secchezza nasale. Lo spray nasale che migliora la cosa non fa nient'altro che sgonfiare le spugnone. Queste spugnone, ma questi spray nasali che molte persone, e mi sembra anche con Maurizio, e problemi, certo. Maurizio non deve usarli tanto, questi spray, mi raccomando. Sì, ma questo lo so benissimo, è soltanto un uso occasionale. Proverò a vedere se effettivamente si cuccia la bocca chiusa la notte. Maurizio, grazie per aver chiamato. Grazie a voi. Buona giornata. Ecco che siamo tornati. Un ascoltatore mi scrive: Nicoletta, chiedi problemi con setto nel nasale deviato. C'entra con la nostra sinusite? Ma il setto nasale può centrare, però ripeto, noi abbiamo abbassato del 50% le indicazioni all'intervento sul setto, avendo introdotto proprio delle tecnologie che permettono di risolvere il problema senza toccare chirurgicamente il setto nasale. Ci sono dei casi in cui va fatto assolutamente, quindi una visita endoscopica con delle fibre ottiche ci permette di valutare se è maggiore la componente ostruttiva legata al setto e quindi per forza di cose bisogna fare un intervento sul setto, oppure se si può evitare questo. Dottor Franzetti, mettiamo l'operazione come ultima spiaggia. Non c'è dubbio. Siamo andati alle terme, ma per chi volesse curarsi a casa, lei come otorino, ho la sinusite, che cosa mi fa fare? Lavaggi nasali, mi dà dei farmaci, mi fa fare l'aerosol? La prima cosa è una condotta igienica, che non vuol dire solo un'igiene del naso in un certo modo, che vuol dire i cosiddetti lavaggi, piuttosto che un modo di soffiarsi il naso che non sia violento. Prima una narice, poi l'altra. E poi l'altra sempre un'aperta, perché altrimenti rischiamo di mandare del muco dentro i seni paranasali. Quindi non solo l'usare il meno possibile i vasocostrittori, quando si usano in eccesso bisogna porsi la domanda del perché, ma anche un'igiene dell'organismo generale, l'idratazione. Se uno non beve abbastanza acqua, soprattutto una persona, magari un anziano, che tante volte sviluppa dei problemi a livello delle mucose del naso, del cavo orale e quindi anche delle sinusiti, perché è disidratato. Il tipo di dieta che si segue. Poi tante volte, siccome c'è un ciclo a livello del naso di turbinati che si gonfiano e si sgonfiano, noi dobbiamo poter avere anche un'igiene dell'alimentazione che rispetti questo ciclo. Se sappiamo già che i turbinati si gonfiano tanto alla sera non dobbiamo fare le cosiddette grandi mangiate, perché sennò devastiamo il naso. Vabbè, quella volta si può anche fare. Però c'è anche proprio un modo di assumere magari frutta e verdura, quindi anche delle vitamine. E poi esistono anche tutta una serie di terapie preventive che si possono fare anche a domicilio, che sono le terapie di tipo per esempio termale, che possono essere anche fatte a casa, sì, che fanno parte dei cosiddetti suffumigi, dal pentolino della nonna fino alle inalazioni, fino all'utilizzo di vari aerosol, di Rhino Wash o di altri dispositivi che mandano dei farmaci localmente sul naso senza farli assorbire dall'organismo. Ma anche la natura ci dà una mano, dottor Assolutamente. Temporin. Assolutamente. Infatti in linea con noi abbiamo il dottor Temporin, che è medico, specialista in igiene e medicina preventiva. Dottor Temporin. Buongiorno Nicoletta. Già il preventiva mi piace. Sicuramente prevenire è molto importante in questi casi. Quali sono gli aiuti che ci arrivano dalla natura? Rimedi naturali per prenderci cura del nostro naso appesantito dalla sinusite? Beh, allora, diciamo che la natura ci viene incontro con due rimedi che possono aiutarci per questi problemi. Il primo in assoluto è il Carpinus betulus, detto carpino, il quale ha un tropismo elettivo per la mucosa dei seni nasali e paranasali, per la faringe e la trachea. Ha un'attività cicatrizzante, antispasmodica e anche antitussigena, per sì, cui va bene in tutte quelle forme dette sindrome rino-sinusobronchiali, rino-tracheiti, recidivanti, sinusiti croniche. Come si prende questa cosa? È un macerato glicerinato, quindi è disponibile in gocce, può essere assunto prima dei pasti, diluito in acqua, 2 o 3 volte al giorno, una 30 di gocce per gli adulti. Si trova in farmacia e in erboristeria? Si trova sicuramente nelle migliori erboristerie, in farmacia, che vendono prodotti ovviamente naturali, e poi è utile associarlo, soprattutto se c'è una fase acuta, anche all'echinacea, in quanto l'echinacea ha un effetto antinfettivo, per cui ci aiuta quando c'è, oltre allo stato infiammatorio, anche la sovrainfezione batterica. Insomma, con l'echinacea si va sicuri, dottor Temporin. L'echinacea è proprio un rimedio che va forte in inverno. Altri suggerimenti, così rispondiamo a Silvia, che in parte le abbiamo già risposto, che ci scrive: se non posso andare alla terme, cosa posso fare con una sinusite accertata? Abbiamo sentito il parere del dottor Franzetti, e a parte che un po' di terme si possono portare anche a casa, vero dottor Franzetti? Assolutamente sì. Scegliendo le acque in relazione al nostro tipo di sinusite. Adesso il dottor Temporin. Dottor Temporin, un altro rimedio quale può essere? Un altro rimedio può essere molto utile, per esempio utilizzare dei suffumigi con qualche poche gocce di olio essenziale, quali per esempio l'eucalipto, che ha un effetto balsamico, quindi aiuta ad aprire le vie aeree, e soprattutto, sono d'accordissimo con il collega, il Rhino Wash, quindi lavare spesso la mucosa nasale, magari anche con dell'acqua leggermente salina, quindi un'acqua che ha un effetto cicatrizzante, ha un effetto decongestionante e quindi ha un aiuto anche per limitare i catarri. Dottor Franzetti, vuole aggiungere qualcosa? No, perfettamente tutto d'accordo. Perfetto, dottor Temporin, promosso. Grazie, prenderemo nota. Grazie dottor Temporin, saluti a tutti. Grazie, buona giornata. E come abbiamo anticipato nel nostro sommario, in chiusura parliamo di malattie neurodegenerative. Alcuni dati: sono più di 500.000 le persone in Italia affette dal morbo di Alzheimer, più di 200.000 quelle colpite da Parkinson e circa 6.000 i soggetti con la Corea di Huntington. Negli ultimi anni, come sappiamo, la ricerca biomedica ha portato allo sviluppo di numerosi test nel tentativo non solo di diagnosticare ma anche di predire l'insorgenza di queste malattie. Se ne parla proprio in questi giorni a Trieste, in un convegno molto interessante a cui partecipano i massimi esperti, e noi ne abbiamo in linea il professor Paolo Gasparini, docente di genetica medica all'Università degli Studi di Trieste. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e ai radioascoltatori. Allora, quali informazioni ci forniscono questi test, professore, e quali potranno essere gli sviluppi futuri? Ecco, allora diciamo che delle tre malattie che lei ha menzionato prima, una è chiaramente genetica, è la Corea di Huntington, e oggi i test diagnostici sono, i test genetici sono dei veri test diagnostici. Sì. Quindi se uno ha le mutazioni sviluppa la malattia, e quindi questo aiuta notevolmente il clinico. Nel caso invece dell'Alzheimer e del Parkinson, i test genetici sono predittivi, perché quelle malattie sono dovute all'interazione tra molti geni e l'ambiente. Quindi oggi i test genetici possono permettere al clinico una valutazione attenta, più mirata e più specifica, che però va ovviamente ancora correlata con il quadro clinico, lo stile di vita, tutta una serie di informazioni che sono altrettanto importanti per la definizione della diagnosi e della predizione stessa. Quindi possono essere diagnostici e predittivi. Esatto, e sono assolutamente diagnostici per quelle malattie in cui la genetica gioca il 100% del certo ruolo. Ma un test predittivo per una malattia neurodegenerativa per cui al momento non ci sono ancora terapie, che cosa vuol dire? Questo è uno dei, diciamo, dei grandi dibattiti, si fanno o non si fanno. E proprio in questi giorni qui a Trieste sono emersi dei dati assolutamente interessanti, ad esempio su chi si è sottoposto a un test predittivo per l'Alzheimer. È venuto fuori che anche quelli che hanno avuto poi un test positivo, che non vuol dire malattia, vuol certo dire solo un aumento, ricordiamolo, del rischio, in realtà più del 50% dei soggetti comunque non ha manifestato grandi problemi di ansia. Chi ovviamente ha ricevuto un test negativo si è rilassato, chi invece ha avuto un test positivo in alcuni casi ha avuto un po' di ansia, in altri non ha avuto manifestazioni. Quindi forse una corretta informazione significa far capire che è solo un aumento del rischio, ma che va poi mediato da tutta una serie di altri fattori, aiuta nel percepire correttamente l'informazione stessa. Allora, professor Gasparini, intanto la ringrazio, vi la lascio il suo convegno a Trieste, e intanto ringrazio anche il dottor Franzetti che ci ha accompagnato, si è preso cura dei nostri nasi, nasoni, nasini, e spero di vederla presto. E intanto noi ci sentiamo domani, come sempre, dopo il GR delle 11. Buona giornata, buon naso da Nicoletta Carbone.